Europa 24. La Commissione europea chiede una rapida ed efficace azione da parte delle autorità italiane per salvare le piante sane ed evitare il diffondersi della xylella in Italia e in Europa. A parlare così il portavoce del commissario Vytenis Andriukaitis dopo lo stop agli eradicamenti deciso dalla magistratura italiana. Non abbiamo indicazioni di comunicazioni di dati sbagliati a Bruxelles dalle autorità italiane, ha aggiunto il commissario, ricordando la procedura di infrazione contro l'Italia per non aver applicato le misure europee antibatterio killer degli ulivi. E restiamo in Italia per parlare dei fondi europei che il nostro paese non riesce ancora a spendere. Mancano ormai pochi giorni al termine ultimo per spendere i fondi europei del periodo di programmazione 2007-2013, ma secondo l'ultimo aggiornamento, al 31 ottobre regioni e ministeri dovevano ancora spendere 6,8 miliardi di euro sui programmi operativi, di cui più di 4 miliardi erogati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. L'Agenzia per la coesione territoriale, istituita nel 2013 ma che sarà pienamente operativa solo a metà del prossimo anno, ha approvato il suo primo piano triennale che definisce strategie e strumenti per non perdere le risorse europee e per rendere la spesa finalmente davvero efficace in termini di crescita economica e di posti di lavoro, sia per la vecchia che per la nuova programmazione. Monitoraggio continuo e rafforzamento delle competenze amministrative di regioni e ministeri sono le linee direttrici del piano dell'agenzia. Dal marzo prossimo, inoltre, saranno fissati indicatori di spesa bimestrali per ciascun programma in modo da individuare in tempo le situazioni di criticità. Lo stesso criterio sarà utilizzato per misurare i risultati ottenuti. Dopo anni sprecati per costruire e rendere operativa l'agenzia, tutto sembra pronto per passare dalle parole ai fatti. Perdere questa scommessa avrebbe effetti disastrosi per il Paese e soprattutto per il Mezzogiorno. Giuseppe Chiellino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Ungheria deve astenersi dall'adottare politiche e discorsi che promuovono l'intolleranza e la paura e alimentano la xenofobia nei confronti di rifugiati e migranti. A chiederlo il Consiglio d'Europa e l'Agenzia per i rifugiati dell'ONU, UNHCR, reagendo alla campagna lanciata dal governo di Viktor Orban, in cui chi fugge dalle guerre sulla base del proprio credo religioso e del paese da cui proviene è dipinto come un criminale, invasore e terrorista. Ed ora il voto spagnolo con l'affermazione del partito Podemos. Le elezioni in Spagna pongono almeno tre problemi sul medio-lungo periodo in Europa. Due sono politici, il terzo economico. Partiamo da quest'ultimo, il più urgente. A ottobre Bruxelles, tra mille polemiche e divisioni interne, ha respinto al mittente la manovra del governo uscente a guida PP. Troppo ottimistiche le previsioni di crescita, non credibile la stima di Madrid, secondo cui il deficit tornerebbe il prossimo anno sotto quota 3%. Questo, sostiene la Commissione europea, perché il budget suonava troppo elettorale, con tagli fiscali e misure che non avrebbero consentito il risanamento dei conti. In teoria aspetta al nuovo governo presentare a inizio del prossimo anno la vera manovra, ma la situazione di paralisi uscita dalle urne non aiuta e allunga potenzialmente i tempi. Problema politico legato a doppio filo a quello economico si chiama Podemos. La nuova sinistra spagnola è lontana anni luce dalla filosofia di austerità impronta tedesca, implementata a dosi massicce qui in Spagna, su ordine di Bruxelles, dopo il bailout bancario, il piano di salvataggio che ha evitato il collasso del sistema finanziario iberico. Podemos è anzi figlio delle crescenti disparità e disuguaglianze sociali che questa austerità ha portato. Inevitabile il risuonare di allarmi rossi nel nord Europa, su dove voglia andare la Spagna. Ultimo problema ancora politico. La versione catalana di Podemos ha trionfato a Barcellona mandando un messaggio chiaro. I catalani vogliono quantomeno un referendum sull'indipendenza dalla Spagna, sostenuto da Podemos. Un tema tabù in Europa, col quale Bruxelles, volente o nolente, potrebbe presto dover fare i conti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Madrid. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.